questa vita in motorino tra le macchine e bus del centro. Il casco figliolo, questo sai non è un gioco. La città nella sera, le gincane dentro i vicoli per le strade. Se ci prende la mano o ci porta lontano, questa smania di nuovo che ci spinge non si sa mai. Ma il tuo telefonino a vibrare dentro nel petto. Facci piano e se caso fuma molto di meno. Assomiglia a una falce questa luna, ma pietà non ha mai nessuna. Prendi freddo tesoro, dentro stai più al sicuro. Non è vero che il mondo è sospinto dal vento, che la vela nel giorno la sua flora. Sudore del suono che mi smonta il cervello, per non pensare ad altro posso scioglierlo adesso, sai, dentro un acido freddo nel mio corpo d'agosto, poi metto